Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini. Buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori di Radio 24, una buona giornata, ben ritrovati in questa giornata davvero di maltempo, anche difficile per molti italiani. A loro vanno i nostri migliori auguri perché escano al più presto da questa situazione e possano trascorrere una serena giornata magari a casa, magari in famiglia, perché la famiglia è la struttura base della nostra società, il mattoncino Lego rettangolare, diciamo, no? Quello che serve per le costruzioni. La famiglia è la struttura costituita da quelle due persone che a un certo punto si mettono insieme per restarci insieme, per costruire un futuro comune, mettere su casa, condividere magari gioie e dolori. Famiglia che è il soggetto di questa nostra puntata di Si può fare famiglia. Ci chiediamo e vi chiediamo oggi: si può fare famiglia? Che famiglia? Dove? Sotto quale tetto? Con che lavoro? In smart working, tutti pressati sul tavolo della cucina, magari a sgomitare? 800 24 0024 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi, SMS e WhatsApp. Nei luoghi e nel tempo la composizione base della famiglia è cambiata, no? Pensiamo soltanto alla nostra piccola Italia, le famiglie di oggi sono più variopinte, diciamo così, sono mutevoli, sono dinamiche, vedono rapporti anche di forza molto diversi rispetto al passato tra i loro componenti. Sono più piccole di solito, hanno più amici che parenti anche questo è una diversità rispetto al passato, ma qualunque sia la famiglia di oggi o di ieri, italiana, americana, peruviana, tibetana, quello che volete, a un certo punto arriva l'evento dirompente. Quello che cambia le carte in tavola per sempre: arriva un bambino. E a questo punto il nostro ospite direbbe: non sai che t'aspetta, uomo. Il nostro ospite è Stefano Disegni, vignettista e appunto autore di Non sai che t'aspetta, uomo, per una paternità davvero consapevole. Eri consapevole tu, Stefano? Buongiorno. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Sì, ero abbastanza consapevole e quindi per questo terrorizzato. Perché avevi visto gli altri o avevi... Avevo visto gli altri e poi insomma avevo un discreto fiuto per le complicazioni dell'esistenza e quella era una grossa. Dico era, però tu dici, ormai sono passati un po' di anni. Sì, le mie due complicazioni hanno 1,26 e 1,23, quindi insomma, come complicazioni sono un po' trascorse, non so. Adesso tocca a loro farsi la complicazione prima o poi. No, io gliel'ho proibito fieramente, ho detto non prima dei 40 anni. Non prima dei 40, accidenti. Non prima dei 40, divertitevi. No, in realtà non è che così. In questo libro descrivevo, la tesi del libro è che i film e i figli sono un film molto molto bello, c'ha tutti gli elementi del film, c'è il pathos, c'è l'emozione, c'è la comicità, c'è l'orrore, c'è di tutto, però il biglietto costa tanto, io raccontavo... E soprattutto il film non finisce, capito? E poi esatto, il film se non ti piace ti puoi alzare e te ne vai, i figli no, a meno che tu non sia un disgraziato, ma insomma questo non era contemplato nel mio volumetto. E io raccontavo semplicemente il biglietto e poi al libro letto i padri, perché ha dedicato ai padri, e ognuno decideva per sé se voleva riprodursi o se invece si faceva subito un biglietto solo andata per le Maldive, insomma. Però tu scrivi anche un po' come la droga, no? Cioè alla fine ci cascano tutti. Tutti sentono i racconti degli altri che dicono è difficile, la sveglia, poi appunto non finisce questo film. E però ci si casca, com'è come non è? ci si casca per un'infinità di motivi, ci si casca per scelta, ci si casca per scelta di qualcun altro che non ti dice che ha scelto, e nei fatti specie qualche signora particolarmente vogliosa di maternità, oppure ci si casca per totale inconsapevolezza, quella di cui parlavi tu all'inizio, oppure ci si casca anche per errori tecnici che fanno parte della vita pure quelli, insomma, no? Certo, però a quel punto ti trovi con la responsabilità di questo frugoletto. Ti trovi con la responsabilità e a quel punto ti guardi in faccia e ti chiedi chi sei. Io per esempio mi fanno un po' sorridere tutti questi trattati sulla paternità, tutti questi bei libri di gente che diventa padre e dice, che ne so, l'alba di una nuova vita si schiude per te, tutto rose e fiori, tutto rose e fiori, accidenti. non voglio terrorizzare nessuno, sono anche delle cose molto belle. Ma tanto guarda, puoi dire quello che vuoi, come dicevi, la droga poi ci si casca alla fine. Esattamente, cioè, a un certo punto si è dei drogati che parlano solo di quello, con gente che parla solo di quello, e poi ti vendi pure l'argenteria come i tossici per poter pagare le spese, le rate, il mutuo di casa e tutto quello che comporta un figlio. Sì, perché poi si tende appunto a pensare che avere un bambino significhi tutto quello che stai dicendo, no? Dal seggiolone, l'ultimo grido, dietro a questo consumismo. Sì, esatto, ma dipende, ripeto ancora una volta, da chi sei, anche come grado di terrore. Se sei una persona come ero io, insomma, io me andavo in motocicletta in Grecia, un costume da bagno, quattro libri e poi tutto contento. Dopo mi sono dovuto comprare una station wagon, oggi si chiama SUV, non so cos'è, enorme, e caricarla di una montagna di oggetti di cui non sospettavo neanche l'esistenza, soprattutto il passeggino che non entrava nel portabagagli perché si apriva sempre e ti schiacciava le dita. Ah, io l'ho dimenticato direttamente sul marciapiede, passeggino, così per far prima. Sai di cosa sto parlando. E poi ovviamente un'altra cosa importantissima e a volte devastante è che cambiano in un certo senso i rapporti con chi quel figlio l'ha fatto fisicamente, parlo della donna, moglie, compagna, quello che sia, insomma. E c'è un punto nel libro in cui dico una cosa che ho chiaramente esagerato per rendere l'idea, che a un certo punto anche la compagna più gentile, più carina, più affettuosa ha le prese col bambino, perché una cosa va detta, per le donne è addirittura peggio, perché ci hanno sempre attaccato addosso per 2 anni, e noi bene o male usciamo, facciamo, insomma, a meno che non vuoi fare il mammo, ma non era il mio caso. E a un certo punto la compagna cambia ed emette un verso, che tu prendi il computer, sai come si fanno, prendi un suono, lo scomponi, lo apri e piano piano lo decifri. Devo dire una piccola parolaccetta, si può? Vabbè, dai, c'hai la licenza poetica. Tanto la dico veloce, come la diceva lei. Apri e capisci che quello ha detto, devo fare tutto da sola perché a te ne frega un cazzo. Quando emette questo verso qui, la vita cambia e tu ti trovi alle prese con tutta una serie di difficoltà. Io chiaramente il libro estremizza, questo è chiaro, però insomma non manco tanto, sinceramente. Sì, no, è chiaro che... Ma non è cambiato un po' anche l'atteggiamento degli uomini? Secondo me sì, cioè sì, c'è più coinvolgimento, poi per quanto dura, dubbio, insomma. Ma ti dirò di più, che anche quando ho scritto questo libro ognuno racconta le proprie esperienze personali. Io ho voluto e voglio molto bene i miei figli, però onestamente faticavo a gestirmi questo tipo di difficoltà, cioè alla terza sera che la babysitter non veniva, davo fuori di matto. Però altre persone no, altre persone sono diverse, altre persone hanno un piacere, non vedono neanche queste difficoltà e quindi sono rispettabili e comprensibili. Insomma, io ho raccontato quelli come me, quelli che venivano da una vita un po' scapocchiona e si trovavano alle prese con una nuova responsabilità, un bambino. Poi il libro finisce bene, certo, come vuol dire finisce bene? Pare che noi questo libro non lo possiamo trovare, perché no? Sì, no, si trova solo online ormai, perché è un libro uscito, come ho detto, un po' di tempo fa, però online lo trovate sicuramente. No, finisce bene, nel senso che finisce con una mutazione anche dell'uomo, che a un certo punto, d'accordo, la mutazione della femmina già l'ho raccontata con quel verso, l'uomo muta perché si accorge che improvvisamente, quasi senza accorgersi, ha ricompattato tutta la hit parade dei suoi valori, che prima erano libertà, sesso selvaggio e motociclette, nel mio caso, e poi improvvisamente al primo porto non c'è più né la libertà, né il sesso selvaggio e le motociclette, ma c'è suo figlio, un bambino, che si accorge che è molto più importante, o insomma tutto il resto, che comunque rimane presente causando dei conflitti psicologici enormi che finiscono inevitabilmente con litigata con chi ti sta accanto, che pensa che non vuoi bene a lei e al figlio e alla famiglia, invece non è così. Quindi, come vedi, è un bel casino. È un bel casino, sì, è uno sforzo che va fatto da due parti, diciamo, per trovarsi su questa nuova situazione, perché guarda che ti assicuro che anche le mamme gli cambia la vita, nel senso che, come dicevi tu, avevi la tua scaletta, ma anche le mamme hanno la loro scaletta, diciamo, di valori. Sì, ho appena detto che per loro, secondo me, è anche peggio, perché ci sono delle cose tecniche che io almeno, ma secondo me anche molti, molti altri padri, non sanno proprio fare, cioè organizzare, accudire un bambino, ma nel senso vero, nel senso di farlo mangiare, nel senso di pensare che cosa serve per lui, allattarlo, ne parliamo neanche, ma quello poi finisce. Insomma, il bambino da piccolino cerca più la mamma che il papà. Il papà è... Però il papà si può inserire, nel senso, perché il papà moderno cerca questo. Un tempo i nostri genitori semplicemente si ritirava il babbo fino all'età in cui non tirava i calci al pallone. I babbi nostri erano tutt'altra fatta, insomma, sono babbi ormai di parecchio tempo fa, e quindi diciamo la partecipazione era un po' relativa in famiglia. Portavano i pezzi di mammut a casa, la famiglia mangiava, loro avevano risolto il loro compito, insomma, e finiva là. Insomma, io almeno qualcosa di più. Ma insomma, a te alla fine ti è piaciuto fare un po', non il mammo, ma non saprei come dire, il papà più affettuoso, ecco, più presente. Sì, alla fine mi è piaciuto. Io sono uno che l'ha scoperto man mano. Dico sempre, io non è che dicevo no, io non li farò mai, io ero come uno che stava al bordo della piscina e diceva che bello, però magari è fredda, no, magari domani, no, adesso me ne sto un po' al sole, poi ho preso un calcio nella schiena e mi hanno buttato dentro l'acqua. Che poi forse è l'unica in questi casi, sì, secondo me è l'unica, e lì ho scoperto che l'acqua era bella, era piacevole, era carino nuotare, e era carino divertirci, potevo fare sia il morto a galla e ai vari stili di nuoto, insomma mi sono divertito. Ecco, io l'ho scoperta man mano, mi hanno fatta, devo dire, scoprire proprio loro le mie due complicazioni, perché ho avuto la fortuna di avere due complicazioni divertenti, intelligenti, e che ancora adesso posso permettermi di dire che abbiamo un ottimo rapporto. Quindi era una cosa che non sapevo, mi terrorizzava, faticavo a stare dentro una struttura famiglia, perché ripeto, sono stato un po' scapocchione prima di loro, però poi sì, è stata una bella cosa che tuttora penso che è un film che mi è piaciuto vedere, pure se ti ripeto, la parte horror c'era. C'è stata, ma adesso lo scriveresti diverso, quindi, questo libro, alla luce delle due esperienze vissute, magari, resterebbe, perché questo è un esercizio anche di, no, come sì, estremizzato, guarda, certe situazioni. Beh, adesso diciamo che sono un po' grandicelli, quindi il rapporto è molto mutato, adesso c'è molta complicità, io e mio figlio per esempio suoniamo insieme, la ragazza fa una cosa che di famiglia fa molto ridere, ha ereditato la passione per le parole crociate, cioè mio nonno ammucchiava settimane enigmistiche, mio padre pure, io pure e lei pure, è curioso, ma nel DNA c'è il cruciverba, insomma comunque abbiamo un rapporto bello. Se lo dovessi riscrivere, diciamo che la parte infanzia e terrore la racconterei in maniera più consapevole, non come un uomo che gli cascava improvvisamente. Il libro, vorrei sottolineare, è un libro che credo, spero, faccia ridere, non è un libro drammatico, non voglio dipingere, però sì, la racconterei con maggiore consapevolezza, perché uno sa che cosa gli è accaduto, però come si dice, col senno de poi sono piene, è vero. Va bene, Stefano, grazie molte, davvero. Grazie a voi, figuratevi. Grazie, okay. Buona giornata. Salutaci, ragazzi, ormai grandi. In giro con la loro moto, immagino, oltre che con le parole crociate. Ovvio. Io non vorrei che dopo questa discussione si sfascino famiglie, quindi declino ogni responsabilità, questo lo dico con chiarezza. Salvo buon fine, va bene. Grazie, ciao. Okay. Ciao, grazie mille, ciao. E diamo un buongiorno anche a Maria Delia, che ci chiama da Palermo per denunciare, al di là dell'ironia con la quale abbiamo affrontato la questione con Stefano Disegni, per denunciare una questione seria. Maria Delia, buongiorno. Buongiorno. E allora, partendo diciamo dal concetto che per famiglia intendo soprattutto parlare della famiglia con figli, perché oggi la coppia può anche decidere una semplice convivenza o anche di non fare figli, eccetera, ma se ipotizziamo l'idea che una coppia si mette insieme per formare un nucleo che comprende anche dei figli, io direi che il problema più grosso che si pone ormai è quello, sono diversi in realtà, uno è quello del precariato, perché ce li deve condensare, sa come funziona Radio 24, sì, che abbiamo il traffico che incombe, però diceva, allora, uno è quello del precariato, certo, sicuramente. Partendo dal presupposto che genitorialità è responsabilità, cioè devi avere un reddito certo per poter garantire alla tua famiglia un minimo di sicurezza. Precariato, difficoltà di reggere un posto precario nello stesso posto, cioè per cui trasferimenti, spese per vivere fuori, per vivere al nord, per noi che stiamo al sud dove spesso le occasioni di lavoro sono maggiori, eccetera, e direi che sono questi i problemi principali. Certo. E mancanza di servizi qua da noi al sud che garantiscano alla coppia in cui sempre di più ormai la donna ha la stessa posizione dell'uomo, quindi con degli impegni quotidiani, eccetera, la possibilità, certo, di vivere. Certo, perché altrimenti lavorare diventa impossibile se non abbiamo i servizi. La ringraziamo davvero tanto di aver evidenziato queste questioni che sono davvero importanti per poter mettere su famiglia, quale famiglia sia, qualunque sia, sia la vostra idea, perché senza lavoro, senza servizi si fa poco. Maria Delia ci ha chiamato da Palermo, potete farlo anche voi, non solo da Palermo. 800 24 00 24, la viabilità tra poco. Si può fare. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta. Ho deciso, investo i miei risparmi online. Sicuro? Sì, con Poste Italiane. Scegli Poste Futuro Investimenti, l'offerta di Poste Italiane per investire ovunque tu sia. Avrai un team dedicato e la competenza di Moneyfarm per la gestione dei tuoi risparmi. Fidati di chi conosci, affidati a Poste Italiane. Vai su poste.it/postefuturo o chiama l'800 022 000. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poste Futuro Investimenti è il canale digitale per gli investimenti che offre il servizio di gestione di portafogli prestato da Moneyfarm e collocato da Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta. Il servizio ha un andamento legato alle dinamiche di mercato. Prima di sottoscrivere i contratti, leggi la documentazione su poste.it/postefuturo. Si può fare. Si può fare. Bambino, armato e disarmato in una foto. Senza felicità, sfogliato e immaginato in questa vita sola che non ti guarirà. Crescerò e sarò un po' più uomo ancora, un'altra guerra mi collerà. Crescerò, combatterò questa paura che ora mi libererà. Milioni sono i bambini stanchi. Precariato, ci diceva Maria Delia, che ha chiamato da Palermo. Il precariato, il basso reddito, la mancanza di servizi sono alcuni dei problemi che incontrano le famiglie, che incontrano le persone che vogliono mettere su famiglia. E ci sono strutture, diciamo, che riescono ad aiutare i ragazzi le cui famiglie hanno problemi di questo tipo, anche più seri, più complicati, che per un certo periodo di tempo costringono i bambini a essere allontanati dalla famiglia. Una di queste strutture è sicuramente SOS Villaggi dei Bambini a Vicenza dal 1981. La direttrice in particolare di questo villaggio è Marta Trecco ed è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Noi siamo stati affascinati un po' dal vostro modo di lavorare. Innanzitutto vorrei che lei descrivesse un po' agli ascoltatori come funziona questo villaggio dei bambini. Per l'appunto ha questo nome proprio perché non è una struttura di accoglienza, diciamo, tradizionale, non saprei neanche come definirla. Come è strutturata la vostra, no? la vostra situazione, il vostro villaggio? Allora, cerco di descrivervelo per cercare di portarvi un po' di più a casa nostra. Visivamente sono un insieme di casette, sono delle bifamiliari che si affacciano su un parco pubblico, per cui c'è proprio un parco giochi davanti e un campetto dove i ragazzi giocano a calcio e a basket. In ogni casetta vivono circa 6 bambini e sono accompagnati ovviamente H24 da 4 operatori. C'è un'operatrice o un operatore che vive proprio stabilmente all'interno della casa famiglia, e con questo dico è un lavoro fino a un certo punto, perché penso che soprattutto per queste figure qui sia una scelta di vita. E ci sono poi degli operatori invece che sono turnanti e lavorano anche loro weekend, feste, sempre, perché il villaggio non dorme mai come una famiglia. E quindi lavorano e aiutano queste figure residenziali all'interno delle case. E oltre a bambini accogliamo anche famiglie, anche donne, perché abbiamo 6 accoglienze di mamme con bambini, quindi vengono accolte assieme. Quindi diventa una grande famiglia di tante famiglie, diciamo, alla fine. Grandissima. In questo momento vi posso dire che abbiamo circa 45 bambini accolti. E poi tra i servizi mamma bambino e casa rifugio un'altra trentina di accoglienze. Non si allontani dal microfono, Marta, che se no la sentiamo rimbombare. Attenzione. Eccomi. E quindi tanti. Poi devo dire che siamo una famiglia come villaggio di Vicenza, ma ci sono altri 5 villaggi come noi in tutta Italia, e in tutto il mondo ce ne sono 572. Quindi famiglie nelle famiglie, proprio una famiglia nel mondo. Ed è lo stesso modello ovunque, adesso, perché appunto io ho iniziato dicendo che le famiglie sono un po' diverse ovunque nel mondo e nel tempo, come è noto. Il vostro modello di villaggio dei bambini è uguale comunque nel resto del mondo? Subisce delle variazioni, magari proprio si adatta al contesto locale? Allora, la mission, che è quella dell'accoglienza di bambini e famiglie in difficoltà, è uguale in tutti i villaggi, che siano in Africa, che siano in Olanda, che siano in Italia. Quella mission lì resta uguale e resta il pensiero che ha fatto partire il fondatore ancora in Austria nel secondo dopoguerra, e questo ci accomuna tutti. Poi è ovvio che un villaggio africano ha delle attenzioni e offre una tipologia di cura e di accoglienza diversa e tarata sul territorio. La bellezza è proprio anche il tenere appunto questi valori alti, però di essere utili ed essere al servizio del territorio dove i villaggi sono collocati. Quindi anche se dovesse andare a vedere gli altri villaggi italiani, respirate la stessa area, ma una diversità insomma rispetto poi al territorio dove sono collocati. Al villaggio di Ostuni ha delle specificità diverse rispetto a quello di Vicenza, così come quello di Saronno e di Mantova. Magari dipende di anche dal tipo di bisogni che hanno i bambini in quel momento o in quell'anno, è proprio un imprinting diverso fin dall'inizio? È un imprinting diverso fin dall'inizio. Ogni villaggio è una cooperativa e ogni cooperativa ha avuto una partenza diversa. Il nostro villaggio, ad esempio, è proprio partito da dei volontari che 40 anni fa frequentavano lo sfanotrofio della nostra città e quindi si sono sincronizzati su quello. Sì, hanno detto vogliamo qualcosa di diverso per i bambini, perché non ci piace, non ci sentiamo vicini a questo modello, e quindi sono rimboccati le maniche, ripeto, erano volontari e sono riusciti a costruire pian piano nel tempo quello che è il villaggio oggi. Probabilmente non sapevano neanche loro cosa sarebbe diventato. Beh, certo. Esatto, ce l'hanno messa tutta. Del resto, quando si parte con una nuova famiglia non si sa poi dove si arriva, no? Siamo all'inizio degli obiettivi comuni, poi dopo si va avanti giorno per giorno, no? Si vede quello che succede. E chissà dove arriveremo tra 40 chissà anni, dove arriveremo. Dire. Che tipo di... cioè, com'è che si diventa, diciamo, mamme, tra virgolette, di questo villaggio, quindi educatori o persone che aiutano all'interno di questo villaggio? C'è qualche richiesta specifica? Allora, per le figure residenziali è richiesta intanto una grandissima capacità di adattamento e una grande disponibilità, perché come avete raccontato, siamo a contatto con la fragilità e la difficoltà, e quindi i bambini che accogliamo comunque a vari livelli hanno subito dei traumi, per cui ci vuole estrema delicatezza, ecco, nel maneggiare queste storie di vita, perché si rischia veramente, sono come proprio dei vasi di cristallo splendidi ma altrettanto fragili, quindi ci vuole molta competenza, molta delicatezza e molta resistenza, perché io dico sempre che i bambini che abbiamo e che accogliamo al villaggio hanno dei superpoteri, no? Ciascuno di loro ha reagito a delle situazioni di difficoltà gravi nel modo migliore che ha trovato per proteggersi e per comunque continuare a vivere, a cercare di star bene, per cui ci sono bambini che vanno in chiusura, bambini che invece cercano l'abbraccio subito, bambini che sfogano la rabbia in maniera importante, ed è il loro modo per comunicare. Io Marta la devo ringraziare, Marta Trecco, la direttrice di SOS Villaggio dei Bambini di Vicenza. Noi torniamo subito dopo GR24, parleremo ancora di Si può fare famiglia. Si può fare. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Può fare. Another summer day has come and gone away from Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. E torniamo a parlare di famiglie. Si può fare famiglia in questo 2020? Ci stiamo domandando, stiamo sentendo le vostre opinioni, le vostre osservazioni. Io devo sicuramente una risposta a un ascoltatore che probabilmente, io l'ho spiegato male, comunque il nesso tra la droga e le famiglie. Quando parlavamo con Stefano Disegni all'inizio di questa puntata, alle 8:30, citavo il suo libro, è inevitabile, ci cadono praticamente tutti, perché i figli sono come la droga pesante, roba stupefacente che ti sconvolge. Quindi questa era l'affinità e soprattutto nasceva dai libri. Poi ci scrivono anche per criticare, parlate di famiglie con figli, ci sono anche quelle senza. Certo, ci sono anche quelle senza, a noi piacciono tutte le famiglie, tutti i progetti, diciamo, di vita che uno fa insieme. A volte i figli ci sono, a volte i figli non ci sono per scelta o perché così è andata la vita, a volte ci sono i single che preferiscono essere single, insomma anche quello è un progetto di vita sicuramente. Ci piace anche sentire la vostra opinione. 800 24 0024 349 238 6666. Quando si parla di famiglia però si parla anche di case, i famosi due cuori e una capanna, poi magari i cuori aumentano o magari diventa uno solo, chi lo sa, però sicuramente la capanna serve a tutti. E allora abbiamo in collegamento con noi l'architetto Filippo Taidelli, buongiorno. Allora abbiamo così chiesto a lei di intervenire, anche perché lei è molto attento all'aspetto sostenibilità e all'aspetto della casa, diciamo, che è più attenta all'ambiente ed è particolarmente attento anche alle ristrutturazioni delle nostre case e delle nostre città, che è una fetta grandissima, perché l'Italia è questo, no? È un paese che ha migliaia di anni e ha tante cose che possiamo rimettere a posto e che non è che possiamo ricostruire. Assolutamente, in realtà avendo tre figli avrei potuto anche contribuire a descrivere le mie esperienze goffe di mammo, ma per fortuna vostra vi parlerò della capanna e non dei tre piccoli porcellini. Però hai esperienza di dove metterli sti porcellini. No, assolutamente, goffe come quando ho tentato di fare un collegamento webinar per il mio figlio maggiore, stavo imprecando, non riuscendo a connettermi, avendo poi realizzato che ero da 5 minuti in diretta con tutta la classe, mettendo in forte imbarazzo mio figlio. Ma torniamo alla capanna. Che da quel momento in poi ha fatto da solo. Ho fatto da padre, ho smesso di fare da mamma. Torniamo alla capanna. Sì, torniamo alla capanna. Ecco, abbiamo già detto nel corso di quest'anno tante volte di come il lockdown e questo periodo un po' sospeso ha accelerato dei processi già in atto, soprattutto nei nostri stili di vita. Da un lato accelera dei processi come lo smart working, la possibilità di lavorare da casa, più a casa, più con la famiglia, e un'ibridazione della dimensione privata con quella lavorativa. Dall'altra anche però la possibilità di rallentare di più i nostri esagerati ritmi produttivi e concentrarci un po' di più sulla cura, sui dettagli anche proprio del nostro nido. Mi piace fotografare questo momento con una bella frase di un poeta che mi piace molto, un poeta caraibico che si chiama Edouard Glissant, che diceva: agisci nel tuo luogo, pensa con il mondo, che mi sembra molto attuale, no? Siamo in un mondo, citavi la sostenibilità, nel quale l'uomo ha un po' l'arroganza di pensare di poter utilizzare risorse infinite su un pianeta che sappiamo essere molto finito. E tra l'altro no, le risorse che produciamo le finiamo sempre prima, no? Ogni anno vediamo l'allarme, attenzione, da questo momento in poi andiamo a erodere il patrimonio del pianeta. Esattamente. Esattamente così. E quindi questa pausa di sospensione, diciamo, che non è ancora finita, ci ha aiutato, a mio avviso, per usare le parole poi di Mancuso anche nella sua Pianeta delle Piante, che potrebbe essere un testo anche molto istruttivo anche per i nostri bambini. Dovremmo cominciare a ragionare di più come le piante, piante che non potendosi muovere, non potendosi camminare come noi, non possono consumare tutto il suolo e spostarsi altrove. Ogni volta altrove. Esattamente, ma sono molto più brave di noi ad adattarsi e a sfruttare le risorse proprio del luogo in cui siamo. E questo un po' avviene anche all'interno della casa, perché costretti a stare all'interno della casa, appunto nell'agire nel locale, abbiamo imparato ad apprezzare di più proprio degli aspetti che magari nella rapidità, nella frenesia delle nostre attività lavorative avevamo trascurato, e abbiamo anche a livello di territorio imparato a conoscere probabilmente delle aree nascoste del nostro territorio che prima misconoscevamo, così come capita anche per quanto riguarda il turismo. Abbiamo scoperto non più soltanto la costa e il mare, ma abbiamo cominciato ad addentrarci in luoghi inesplorati, e da qui l'importanza e l'enorme ricchezza che citava sul patrimonio edilizio esistente che abbiamo in Italia. Noi abbiamo 2 miliardi di metri quadrati di edifici inutilizzati, prevalentemente anziani, cioè un parco di edifici che hanno per il 65% più di 30 anni, quindi possiamo immaginarci quanto poverini siano affaticati a livello di impianti, quanto siano energivori, quanta energia consumano, e soprattutto dobbiamo anche pensare che noi consumiamo con edifici nuovi, quindi greenfield, all'incirca 2800 ettari, quindi diciamo per intenderci 3000 campi da calcio all'anno di suolo artificiale sopra quello di campagna. Quindi da qui capiamo che enorme risorsa sia in un paese come l'Italia, che ha la più grande concentrazione di patrimoni storici dell'UNESCO e nel mondo, la possibilità di intervenire con ristrutturazioni mirate, certo. mirate soprattutto al risparmio energetico, alla riconversione contemporanea degli edifici esistenti, da fuori la città, dai borghi che sono ormai abbandonati, alla città e ai centri storici. C'è quindi una grandissima opportunità a livello energetico e anche a livello creativo, perché comunque intervenire su un edificio esistente può essere tanto più stimolante creare un nuovo edificio, e può rispondere in maniera altrettanto efficace alle esigenze contemporanee. Allora, io la devo fermare un attimo, architetto, che abbiamo le informazioni sul traffico e poi torniamo. Io le vorrei chiedere anche del fatto del lavorare in casa, no? E quindi l'armonia che abbiamo necessità di avere quando lavoriamo tutti insieme in smart working, diciamo così, come in questo periodo. Si può fare. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta Promo 24. Piemonte bellezza singolare. Scopri i borghi storici e siti UNESCO con le residenze barocche. Piemonte libertà singolare. Immergiti in panorami unici. Esplora le 96 aree naturali protette. Scegli il tuo itinerario sui 20.000 km di percorsi a piedi o in bici. Piemonte gusto singolare. Assapora l'autunno col tartufo bianco d'Alba e i grandi vini di 18.000 cantine. Piemonte spirito singolare. Vivi i percorsi dell'anima, i sacri monti, la via Francigena e le sinagoghe. Il Piemonte che non ti aspetti, scoprilo su visitpiemonte.com. Si può fare. Futuro, poche le ombre riflesse sul muro, tutto è già lì a portata di mano, ed una musica vola come un giro di lancette che si sa, sovrapposta insieme ad ogni ora, ma libere, libere che sono le venti, sono le venti, sono le venti e dieci, sì, noi siamo quelli che vedono. Abbiamo ancora in collegamento l'architetto Filippo Taidelli per parlare appunto della casa giusta, della capanna giusta per le nostre famiglie. Nella capanna giusta in questo periodo ci sono anche coloro che lavorano, spesso non vanno più in ufficio e si trovano a lavorare da casa. Sicuramente una di queste persone è un altro architetto, Stefania D'Onofrio, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Senior Technical Specialist a Stantec. Stantec è un'azienda internazionale, si occupa di consulenza e progettazione ingegneristica e architettonica, giusto? Dico bene? Sì, corretto. Allora, è diventata famosa questa Stantec negli ultimi giorni per l'assunzione anche di, in particolare, una donna in dolce attesa, ma abbiamo capito essere un po', diciamo, una multinazionale che ha particolare attenzione per le famiglie in generale, non solo per le donne che aspettano un bambino. Cioè, voi siete molto aiutati in questo. Ci dà qualche esempio, appunto, di come viene conciliato il lavoro nel vostro ufficio? Sì, sicuramente. Allora, quello che posso dire è che addirittura nell'ultimo periodo ci sono stati 3 casi recenti di assunzione di persone già in maternità, tra cui una persona che ricopre anche un ruolo diciamo rilevante, come si dice, apicale. Sì, esatto, ma il concetto di Stantec è la conciliazione tra la famiglia in senso ampio, no? Sentivo un ascoltatore che parlava di famiglia anche di due persone, sì, di famiglia e di traguardi personali di vita, che possono essere anche una seconda laurea piuttosto che una passione, piuttosto che il volontariato, quindi la conciliazione è a 360 gradi. E questo, diciamo, si ottiene, ora chiaro che non tutti i lavori possono essere fatti certo, così, perché c'è qualcosa che richiede presenza, che richiede turni, come noi ad certo, esempio nel giornale radio devi essere lì per forza, ma voi riuscite a lavorare per obiettivi nella maggioranza dei casi, e questo vi consente di gestire il vostro tempo? Sì, il lavoro per obiettivi aiuta, perché alla base ovviamente c'è la competenza e la fiducia reciproca poi nel lavoro di team, e lavorare per obiettivi dà una flessibilità. La flessibilità viene chiesta ovviamente dall'azienda, ma è anche una peculiarità di tutti coloro che lavorano per obiettivi, no? Sapersi organizzare. Da questo punto di vista poi ci sono tutta una serie di pratiche che l'azienda mette in campo per fare in modo che tutti i generi, intese come la diversità di cui parlavo prima, partano dagli stessi blocchi di partenza. Quindi abbiamo persone che lavorano in part time, me compresa, abbiamo orari flessibili che vanno dalle 7 alle 22, quindi si possono lavorare 8 ore in periodi anche diversi dal classico orario diciamo 9-18. Di ufficio, che addirittura per i genitori arriva dalle 6 della mattina fino alle 24. Poi abbiamo i congedi parentali, ovviamente di legge, ma anche per uomini ben accetti. Per quanto riguarda le mamme, posso dire che comunque la situazione è di eguaglianza totale, sia come scelta salariale, ruoli, e tutte le persone, qualunque sia la loro famiglia o la loro vita, a tutte viene offerto lo stesso tipo di opportunità. Quindi sta poi dopo al lavoratore, ecco, insomma, scegliere se vuol fare la sua vita tranquilla d'ufficio o organizzarsi diversamente, magari appunto puntare a carriera interna o laurea o appunto aggiungere altri esatto, impegni nella sua giornata. E poi non ultimo c'è lo smart working, ovviamente, perché noi siamo partiti con un progetto pilota già diversi anni fa, ma ormai sono più di 3 anni che abbiamo 3 giorni di smart working alla settimana disponibili a nostra disposizione, che si sono prolungati dal 22 di febbraio a 5 giorni a settimana, ovviamente per rispondere alla situazione, all'emergenza Covid, quindi sia per sostenere, diciamo, l'ambiente e quindi non andare a sovraccaricare le infrastrutture, sia per tutelare la salute, certo. Sì. Architetto Taidelli, a questo punto però, come dicevamo, tante persone lavorano a casa e le case forse non sono pronte ad ospitare tutte queste persone smart working. E cosa si può fare su questo aspetto? Sì, esatto. Diciamo che, come si diceva, c'è un processo, stavate accennando, di ibridazione tra le diverse destinazione d'uso anche fuori dalla casa. Ormai siamo abituati a vedere un ufficio che è bar, di vedere un ambulatorio all'interno di una stazione, quindi non è più possibile affibbiare il nome di una specifica attività all'esterno della casa. Allo stesso modo, all'interno della casa diventa difficile ormai parlare di un luogo specifico come soggiorno, cucina, bagno, ma c'è una positiva e dinamica contaminazione tra questi ambienti. In questo senso credo che l'obiettivo oggi, visto che le dimensioni delle case sono inevitabilmente limitate e non tutti possono avere la fortuna di avere uno spazio all'esterno, quello di creare uno spazio estremamente flessibile, ma non la flessibilità, la modularità che normalmente noi associamo ad un ambiente più industriale, produttivo. Quindi non un open space come esatto, possiamo inventare. Ecco, bravissima. Non quell'esperimento dei loft bellissimi ma scomodissimi, energivori, ma tentare di unire quelle che erano le caratteristiche, la piacevolezza della vita, della trasparenza, della continuità, della luce naturale all'interno del loft, insieme a quelle che erano gli aspetti positivi della casa tradizionale, corridoio e stanze perimetrali. Come? Per esempio con un involucro vetrato, ormai ci sono serramenti che ci consentono di avere la completa trasparenza, quindi avere visibilità anche chi ha bambini o non bambini, di poter traguardare visivamente l'attrattività, non avendo però i limiti a livello di rumori, odori che possono derivare dalle stesse stanze. Lo stesso dicasi per l'involucro esterno, cioè la finestra e gli eventuali lucernari, perché oggi parliamo molto anche a livello di materiali della casa, di materiali antisettici, siamo ossessionati dalla pulizia, ma consideriamo che uno degli aspetti più importanti in questo momento caratterizzato dalle epidemie respiratorie è quello della ventilazione, cioè il fatto di poter, quando si può, non oggi per esempio a Milano che diluvia, tenere la finestra aperta è di gran beneficio, perché come sappiamo spesso per esempio nuovi filtri non soltanto in ingresso dell'aria ma anche in uscita, perché sennò finiamo per star sani a casa e contaminare quelli fuori. Quindi c'è un'evoluzione importante che ci consente di vivere tutti insieme, pur vivendo sempre di più e con diverse attività alla casa. Stefania D'Onofrio, per curiosità, infine, lei come si è organizzata a casa? Era già pronta per tutti questi giorni di smart working oppure no? Non c'è più. Perché avevamo già un'esperienza di 3 giorni a settimana e diciamo che sono riuscita anche a organizzarmi grazie all'aiuto della famiglia, quindi in realtà di mio marito e dei miei figli che hanno collaborato, però mi sono creata il mio spazio che è quello da cui vi parlo adesso. È una casa diciamo così normale, lei non è che mi vive in una villa d'Arcore. No, diciamo che ho fatto smart working in una casa molto più piccola, questa è un po' più ampia sicuramente, però ho fatto 2 anni di smart working anche in una casa decisamente più piccola di questa. Adesso ci stiamo allargando anche in famiglia e quindi la casa è decisamente un po' più grande. Bene, allora che dire, congratulazioni anche per l'allargamento, è ancora in corso, vero, se non sbaglio? In arrivo il terzo. Esatto. Grazie davvero a tutte e due, a Filippo Taidelli, architetto, per essere stato con noi, avere condiviso con noi le sue riflessioni, a Stefania D'Onofrio, e anche congratulazioni alla Stantec che riesce a portare avanti un progetto così grande a vantaggio delle famiglie e comunque dei suoi dipendenti. Noi adesso abbiamo una piccola pausa e torniamo tra pochissimo, parliamo di famiglie, ma di famiglie che si costruiscono con attori che appartengono a paesi diversi. Si può fare. Si può fare. E non so se avete capito dove vogliamo andare grazie a questa canzone American Woman. Io direi di sì, il suggerimento era piuttosto chiaro, anche se forse non un po' a parti invertite, ecco, insomma, innanzitutto dobbiamo salutare e ringraziare Simona Siri che è in collegamento con noi da New York, quindi in piena notte. Buongiorno, buonanotte, non so come si dice. Buongiorno, io dico buongiorno a voi, poi vediamo. Noi diremo buonanotte a te alla fine di questo collegamento, al termine del quale immagino andrai a riposare. Ti ringraziamo davvero tanto. Simona Siri, giornalista, autrice di Mai Stati Così Uniti, ed è la storia contemporanea degli Stati Uniti attraverso la storia del tuo matrimonio con Dan, quindi un americano, giusto? Americanissimo. Come lo definisco nel libro, alle volte persino troppo americano. Non te, quindi in teoria noi pensiamo, no, insomma, si sono sposati, una cultura che noi crediamo di conoscere, quella americana, siamo cresciuti con film, libri, di qua, chi più ne ha più ne metta, viaggi, tu poi eri già lì come giornalista, quindi avevi una conoscenza ovviamente della città e pensavi in fondo nel nostro mondo occidentale questo matrimonio non mi presenterà grandi sorprese. Invece le prime sorprese sono arrivate subito, direi circa 4 anni fa, con l'elezione di un certo signor Trump. Sì, dunque, noi ci siamo sposati un sacco di volte, ci siamo sposati la prima volta ad aprile del 2016 al comune di New York, che è una cosa molto newyorkese, perché il City Hall, quello che si vede anche nei film, no? Che tutti arrivano, c'è il banchetto fuori che ti vende i fiori se te li sei dimenticati, ti vende anche l'anello finito se lo vuoi, ci sono coppie di tutte le età, di tutte le razze, di tutte le religioni, è un'esperienza molto newyorkese che volevo fare, quindi l'abbiamo fatta. E poi abbiamo fatto una festa invece, un matrimonio più, diciamo, tradizionale, con anche gli amici, insomma, italiani, esattamente un mese prima delle elezioni, a ottobre, no, l'8 di ottobre del 2016. E in quel momento nessuno pensava, come dire, che Trump potesse vincere, tant'è vero che alcuni ospiti si presentarono al nostro matrimonio con le maschere di Hillary e di Trump, perché sembrava una cosa così spiritosa. Io ho ancora delle foto, appunto, con gli ospiti con le maschere, e queste quelle foto non posso più vederle perché sono, poi non fanno più così ridere, diciamo. E quindi sì, insomma, un matrimonio segnato da questo, io che pensavo appunto di trasferirmi negli Stati Uniti nel momento in cui una donna sarebbe diventata presidente, invece, come dire, è segnato, diciamo, ma è arrivato in un momento un po' diverso, insomma, che adesso sì. Ci risiamo. Però al di là di questo, tu racconti, no, nel libro, attraverso questi episodi di vita, quindi il matrimonio, l'elezione di Trump, quello che poi è la vostra, anche la vostra quotidianità, che non è così scontata, insomma, non è appunto perché ci sembra di conoscere gli Stati Uniti che poi dopo conosciamo veramente gli Stati Uniti, le loro abitudini, come sono le persone, come sono cresciute, che sistema sanitario hanno e così via. Il vostro matrimonio diventa il momento di conoscenza reale del paese. Sì, guarda, beh, l'idea del libro è venuta appunto perché mi sono resa conto che su tante cose io e mio marito siamo diversi per carattere, quindi per caratteristiche, caratteristiche personali, esatto, capita a tutti, anzi secondo me sono anche, forse alle volte fa anche bene, no? Accoppiarsi in modo così un po' sbilenco. Però appunto discutendo così mi sono resa conto che tante cose sono anche proprio, vengono dal fatto che proveniamo da due culture diverse, da due culture che per quanto si conoscano tra di loro, perché poi anche gli americani sono molto innamorati dell'Italia, di tutto quello che è italiano, quindi per noi figurati ancora di più, no? Appunto, come dicevi tu, attraverso i film, i libri, i telefilm, la musica, quindi due culture che pensano di conoscersi, che però sono ancora molto diverse. E in realtà siamo anche un po' stereotipati l'uno nella conoscenza dell'altro. Cioè, io ricordo Matteo Renzi accolto con cos'è che gli aveva messo, i mandolini, qualcosa, o Sole Mio, alla Casa Bianca. Insomma, non è che proprio siamo ancora lì e non mangiamo cipolla e aglio continuamente. Cioè, è un po' lo stereotipo, no? Dell'uno e dell'altro. Poi però quando si vive insieme queste cose saltano fuori e ci si capisce poi di più, ma ci vuole un pochino di sforzo, immagino. Sì, ci vuole sforzo, ci vuole ovviamente desiderio e volontà di incontrarsi nel mezzo, però come vi spiego nel libro, che è un altro forse luogo comune, però veramente ti apre molto la mente, ti apre molto la testa il dover avere a che fare tutti i giorni con qualcuno che ama anche solo banalmente guardare dei cartoni animati diversi dai tuoi quando eri bambina, ha delle abitudini, non so, ma alla fine cos'è giusto, esatto, diversi. Volevo chiederti proprio questo, ma cos'è giusto mangiare a colazione? L'avete stabilito, allora, o state ancora lì a discuterne? No, ognuno mangia il suo. Cioè, quindi te biscottini e la briochina? Io biscottini e la briochina, assolutamente, e lui questi cereali che io detesto, che secondo me non sono nemmeno così sani, ma loro sono fissati e dicono che i cereali sono cibo sanissimo, ma non lo so, però... Dipende da che origine. Esatto. Sulla colazione no, siamo ancora... Siete ancora distanti. Posizioni. E sui biglietti di auguri, qual era la discussione sui biglietti d'auguri? Raccontala un po' agli ascoltatori. Ah certo, sui biglietti d'auguri, perché il primo anno appunto io ho comprato questi biglietti d'auguri da dare ai dormer del nostro palazzo, e ho, da buon italiano, ho scritto Buon Natale. Mio marito, capelli dritti, che peraltro ebreo, sì, però non è praticante, però insomma, capelli dritti, mi ha detto: ma sei impazzita? Ho detto: ma come? Non potrei partire Natale, ti auguro Buon Natale. E invece, insomma, in una città come New York, dove non devi mai dare per scontato la religione degli altri, no? Quindi qui non c'è una religione ufficiale, non c'è una religione di Stato, tra l'altro c'è in Italia, però come dire, non c'è una religione predominante, e quindi cioè, scrivere Buon Natale. E quindi si fanno gli auguri per il nuovo anno, immagino. Sì, si fanno buone feste, generale, buone feste. Quindi, che non si offende nessuno. Esatto, è stata una cosa che è successa proprio veramente all'inizio, no? È stata la mia prima esperienza, il primo insegnamento di quello che poi qui definiscono il politically correct, che però non è nemmeno poi nemmeno solo quello, però è stata la prima, come dire, la prima esperienza sulla mia pelle di, io lo chiamo un training alla sensibilità, no? Cioè questo abituarsi a non dare mai per scontato quando si parla di religione, quando si parla di razza, quando si parla di abitudini degli altri. Beh, sì, no, scusa, mi stavo leggendo qualche assurdo messaggio di quelli che ogni tanto si ricevono, no? E quindi mi ero un po' distratta perché non so bene come rispondere. Uno mi dice: crede di essere meno provinciale snobbando aglio, cipolla o sole mio? Ma cosa c'entra? Io non, cioè, dico che la rappresentazione dell'Italia, aglio, cipolla o sole mio, è un po' così, ecco, stereotipata. Poi dopo, non lo so, ognuno in ogni la pensi un po' come vuole, ecco, non lo so. Poi sulla questione, voi di sinistra, quando le elezioni le vincono gli altri, è una denigrazione continua, fate pena. Ma noi non stiamo parlando neanche di quello, voi di sinistra, no? Non capisco, a volte non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire, no? Direi, non lo so, poi sarà uguale anche lì, mi pare, no? Non è che la situazione della sorditudine negli Stati Uniti vada molto meglio. No, anzi, in questo momento direi sono proprio due gruppi che non si ascoltano, non si parlano, non si capiscono. È una situazione abbastanza surreale, insomma, vivere in questo momento qui con tutte le tensioni che ci sono e tutta l'incertezza che c'è, perché poi nessuno sa cosa succederà in questo momento. Ogni giorno c'è una sorpresa nuova, quindi Certo, no, ogni giorno c'è una sorpresa nuova. Così, per concludere, vorrei chiederti, da giornalista a giornalista, la scorsa volta abbiamo sbagliato di grosso non andando nell'America vera, diciamo, no? Tutti sono stati a parlare a New York, a Washington, ma di viaggi interni a sentire il popolo ce ne sono stati pochini. Questa volta vedi più attenzione rispetto a questo e quindi una maggior capacità di previsione anche dell'esito di questo voto, che poi sempre che si voti adesso, perché poi è tutta una questione, però come ti pare? Sì, sicuramente c'è più attenzione per quello appunto che hai chiesto. L'America vera, che però non so se si può definire vera, l'altra America forse numericamente è comunque sì. Corposa, ecco, è corposa, sì, però diciamo la maggioranza sono ancora le città delle coste che la maggioranza della popolazione si riversa ancora sulla città delle coste. No, dicevo sì, sicuramente c'è più attenzione, sono anche usciti libri in questi anni che hanno cercato di raccontare, no, quell'America lì, penso per esempio alla legge americana, insomma, c'è sicuramente più conoscenza, più sensibilità. E poi quello che dicono adesso per esempio i sondaggisti, che hanno aggiustato anche hanno capito gli errori che avevano fatto nel 2016, quindi i sondaggi in questo momento dovrebbero essere più accurati, più affidabili, sì, più accurati. Vedremo, anche perché la gente ha preso il vizio un po' di dire le bugie davanti alle domande dei sondaggi, quindi immagino che sia sempre una corsa gatto e topo. Ringrazio Simona Siri, giornalista, scrive per Vanity Fair, scrive per Il Foglio, giusto per citarne qualcuno, autrice adesso di Mai Stati Così Uniti, appena uscito per Tea. Buonanotte allora, dai, buon riposo. Grazie mille, buona giornata. Ciao, ciao Simona, adesso noi abbiamo la viabilità, tra pochissimo ci sarà una nuovissima rubrica con un ospite che conoscerete tra poco, anche se in realtà a dirla tutta lo conoscete già, è un marchio di fabbrica. Si può fare. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Fare. Ed eccoci qua per la nuova rubrica che ci accompagnerà per 5 puntate, per l'esattezza. Questa nuova rubrica si chiama Terra in Vista, sostenibilità spiegata a mio figlio. Terra in Vista, la sostenibilità spiegata a mio figlio. Nel 2050 saremo tutti vegani. I più fortunati però potranno mangiare gli insetti. Sì, perché nel 2050 saremo tantissimi e tutti un pochino più vecchi. La speranza di vita è cresciuta a tal punto da non essere un problema la sopravvivenza. Allora bisognerà trovare un modo per eludere questa nostra resistenza alla morte. Qualcuno sceglierà le epidemie, qualcun altro la depressione, chi la fame, chi il diabete, chi il tuffo dal balcone. Quasi tutti i ghiacciai dei poli ai confini del mondo saranno sciolti. Nel 2050 non esisterà. Federico Taddia, ben arrivato, ci fa molto piacere ospitare Terra in Vista all'interno di Si può fare. Parliamo di cosa? Eccoci qua, ciao, buongiorno a tutti. Beh, esatto, abbiamo scelto di raccontare, narrare, tentare di spiegare, di trovare le parole giuste per i nostri figli, per le ragazze e ragazzi, per capire cosa sia la sostenibilità, che è una parola che masticano molto, non solo grazie usurata a Greta. Usurata quasi ultimamente. Quasi usurata, esatto. E quello che manca spesso è un po' anche le competenze, no? le conoscenze, dare un significato a quei contenuti di cui magari parlano ma non ce n'è contezza. Quindi abbiamo scelto di spiegare la sostenibilità in 5 puntate, dando così qualche concetto per definire 5 parole difficili. E lei già scelte tutte e 5? Sì, la prima è complicata anche per me perché c'ho troppe Z. Voi Emiliani avete un problema con le Z. Se poi la ripeto io, tu intanto dilla che poi la ripetiamo. Allora è decarbonizzazione. L'hai detta benissimo. Che è una parola lunga, ti fa vincere a scarabeo ovviamente, però è una parola che ha veramente dentro un po' quello che è il cuore della sostenibilità. Per spiegare ai ragazzi solitamente queste cose servono degli esempi, partiamo da dei numeri però, ti do proprio 3 numeri che sono 2050, lo cantavano anche prima l'Eugenio in Via di Gioia, no? Che è una data importante, un obiettivo, è la data entro la quale si è prefissati di arrivare a zero emissioni di carbonio, che sembra un obiettivo irraggiungibile, no? E invece insomma si sta lavorando per quello. Il secondo numero che darei ai ragazzi... Anche se qualcuno fa un po' finta, eh. Ma tanti fanno tanti finta in me. Però appunto il pianeta ce lo ricorda, che quella è la verità. 36,8 invece sono i miliardi di tonnellate di carbonio emesso nell'atmosfera nel 2019, quindi una cifra abnorme. Quest'anno anche... causa o grazie al Covid questo numero sta un po' diminuendo, però insomma ancora una cifra esorbitante. E poi ho il podio delle nazioni più sporcaccione. C'è la Cina al primo posto, il 28% dell'emissione, seguita dagli Stati Uniti, il 15%, l'Unione Europea nella sua interezza, il 9%, l'India, la Russia e il Giappone. Insomma, quindi posso dire una cosa? La Cina è sempre in cima. Contesti la classifica? Contesto un po' la classifica, no, perché è chiaro che la Cina è in cima, no? Però per chi produce, certo. Per quegli altri, brava, tenetene prima. Conto. Ma perché appunto, no, la parola globale, che l'abbiniamo al riscaldamento, globale perché è comunque un problema di tutti, è inutile poi mettere i confini a questa cosa, no? La CO2 non conosce confini. Però per spiegare bene alle ragazze e ragazze cosa sia la sostenibilità e in questo caso cosa sia la decarbonizzazione, ho invitato un'esperta. La possiamo accogliere, vero? L'accogliamo, la presenti tu, la presento io. Vai, presentala tu. No, allora, lei è Elisa Palazzi, ci fa molto piacere ritrovarla, ricercatrice presso l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in sigla questo è CNR ISAC di Torino. Buongiorno. Ciao Elisa. Ciao, buongiorno Federico e Laura, grazie dell'invito. Allora, sono tre domande che ho preparato per Elisa, sono tre domande che credo che le risposte possano essere molto utili per i nostri ragazzi. Prima domanda, Elisa, decarbonizzare vuol dire togliere il carbone? Allora, guarda, in verità vuol dire più che altro togliere il carbonio, che significa anche eliminare il carbone tra le fonti fossili che noi oggi ancora utilizziamo per produrre l'energia, no? Insieme al carbone abbiamo anche il gas naturale, abbiamo il petrolio, che sono appunto i tre principali combustibili fossili che noi dalla rivoluzione industriale abbiamo ampiamente utilizzato proprio allo scopo di soddisfare il nostro fabbisogno energetico. È però una tipologia di produzione energetica che comporta poi un'emissione elevata di gas a effetto serra in atmosfera come l'anidride carbonica. Non è l'unica fonte chiaramente che porta alle emissioni di gas serra, ci sono anche l'agricoltura, l'allevamento intensivo, c'è la deforestazione che è chiaramente un altro tassello importante e che dovremmo smettere di fare se vogliamo arrivare all'obiettivo di decarbonizzare appunto il nostro sistema, perché togliendo le foreste togliamo una di quelle che sono i pozzi cosiddetti principali di CO2, cioè assorbitori naturali di CO2 insieme agli oceani. Pensa che circa il 50% delle emissioni di gas serra che derivano dalle nostre attività sono assorbite da oceani e vegetazione, il resto è rimasto nell'atmosfera andando a contribuire appunto all'effetto serra naturale. Elisa, abbiamo ancora 4 minuti, sembriamo essere Mike Buongiorno. Il carbonio è un'invenzione dell'uomo o c'è sempre stato? No, ovviamente c'è sempre stato, perché il carbonio fa parte di un ciclo naturale, il ciclo del carbonio, che è composto da vari elementi veloci oppure molto lenti. Quelli veloci sono gli scambi tipicamente tra la vegetazione, l'atmosfera, l'oceano. Quelli più lenti riguardano le componenti più geologiche, i suoli, gli oceani profondi, le rocce. Noi però abbiamo messo lo zampino anche lì, in questo ciclo, andando a modificare in maniera abbastanza tangibile il ciclo veloce, cioè immettendo appunto in atmosfera nuova anidride carbonica da fonti e da processi che non sono naturali, ma che sono appunto essenzialmente legati alle nostre attività. E questo ha portato a un accumulo anno dopo anno dell'anidride carbonica, perché non è il problema delle emissioni di un anno e basta, è che queste anno dopo anno si accumulano, e l'anidride carbonica, come gli altri gas serra, hanno una vita media molto lunga. E non è che vengono rimosse appena uno le butta in atmosfera, restano, permangono e determinano così appunto l'amplificazione dell'effetto serra naturale. Elisa, ultima domanda, abbiamo veramente un minuto, e senza decarbonizzazione cosa accadrebbe al nostro pianeta? Guarda, non dovremmo neanche prenderla in considerazione quell'opzione lì, cioè non è proprio più un'opzione non decarbonizzare, è un imperativo. Perché per raggiungere gli obiettivi che dicevi tu, quelli intermedi al 2030 e la neutralità climatica, cioè l'azzeramento delle emissioni nette di CO2 entro il 2050, noi dobbiamo necessariamente attuare le politiche di riduzione delle emissioni, altrimenti potremmo avere un mondo più caldo di 4 gradi in più rispetto ad oggi in media, quindi 5 gradi in più rispetto al periodo preindustriale, che però vuol dire per esempio un Artico più caldo di 5 gradi, di 10 gradi, di circa il doppio, quindi ghiaccio marino che fonde, quindi tutta una serie di ripercussioni su tanti aspetti del sistema climatico, eventi estremi che si intensificano ancora di più, probabilmente il raggiungimento di punti di non ritorno per tanti ecosistemi che francamente finora non abbiamo mai conosciuto, davanti ai quali non so come potrebbe essere poi la nostra capacità di adattamento. Ringraziamo Elisa Palazzi per essere stata con noi e per averci spiegato appunto con queste tre facili, mica tanto, risposte cosa sia la decarbonizzazione. Ciao Elisa. Ciao, grazie, a presto. Chiuderei con un libro. Laura, ne hai facoltà. Anche perché insomma il titolo sembra suggerito da quello che ci ha appena detto la Palazzi. Fa un po' caldo, è il titolo che è anche spiritoso, no? Però è un libro molto intenso. È la breve storia del riscaldamento globale dei suoi protagonisti, Fabbri Editore, scritto da due esperti che sono Federico Grazzini e Sergio Rossi. Tantissimi numeri, tantissime curiosità e anche tantissimi film e musiche da ascoltare insieme, guardare insieme per capire appunto cosa sia il riscaldamento globale. Grazie Federico, ci ritroviamo la prossima settimana. Terra in vista, la sostenibilità spiegata a mio figlio. In collaborazione con Eni, insieme abbiamo un'altra energia. E noi abbiamo gli ultimi 30 secondi per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa puntata: Michele Michelazzo come autore, Edoardo Lavezzari in redazione, Paolo Corleoni oggi in regia. Ci ritroviamo domani alle 8:30. Si può fare l'Italia, ci domanderemo. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.